a cambiare la gomma. Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. Quante soddisfazioni mi dai! Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani. E con questa, con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità queste idee. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. Noi abbiamo tirano le gambe. Però. Vedi, però sei molto intelligente da qualche istante a questa parte. Per cui adesso con tutto questo mare di intelligenza possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina, nella macchina. La macchina è in qualche modo la regina delle nostre vacanze. Pensa, Nicoletta, che a parte mette che sceglieremo altri mezzi, quest'estate la sceglieranno invece il 67% degli italiani per i loro spostamenti. È in assoluto il mezzo di trasporto più scelto, seguito dall'aereo 21% e dal treno 7%. Sono dati che arrivano dall'11ª edizione dell'osservatorio Europe Car, stili di vacanza degli italiani, che in collaborazione con Doxa mette a fuoco gli stili di vacanza nel nostro paese. C'è però un altro dato su cui ci concentreremo questa mattina nella prima parte di Cuore e Denari, quello relativo a chi sceglie l'auto per le sue vacanze ma la noleggia invece di portarsi appresso quella di proprietà. Quanto costa il noleggio dell'auto? Chiaramente dipende, immagino, dalla società che si sceglie, dalla località che si sceglie di raggiungere, ma soprattutto noi cercheremo di spiegarvi come si fa, quando conviene, quali sono i rischi e come prevenirli. Sono tutte domande a cui cercheremo di rispondere nella nostra pagina di Denari. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione se avete in mente di noleggiare un'auto quest'estate. E invece nella parte di Cuore, oggi lo sappiamo, è l'ultimo venerdì del mese di giugno e quindi torna l'appuntamento con Salute Uomo, il nostro spazio dedicato alla salute maschile. È un progetto che parla di prevenzione, di stile di vita, di ricerca, con l'obiettivo di trasmettere ed educare, se ce la facciamo, ad un nuovo concetto di salute e benessere maschile. Insomma, ci stiamo impegnando per far sì che, come per la salute femminile si è abbandonata la visione bikini, perché la donna non è solo seno, utero, ovaio, anche per l'uomo si superi quell'approccio alla prevenzione e al benessere formato slip o boxer. Coniamo questo nuovo modo. 800 24 00 24, rimane rosa comunque la nostra barriera anche nell'appuntamento di Salute Uomo. Oggi parliamo di naso, senza scomodare i vari Cyrano de Bergerac o i Pinocchio di collodiana memoria e tutti i personaggi noti per avere naso. Il dato di fatto è che il naso degli uomini è in generale più grande di quello delle donne. Non è solo però un problema di dimensioni. Ne parleremo a partire dalle 11.45 insieme ad Andrea Salonia, uroandrologo di Salute Uomo, che è già qui con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi infatti parleremo di naso, nella nostra visione un po' a tutto tondo della salute e della promozione della salute maschile. Cercheremo di dare delle informazioni anche curiose relative al rapporto soprattutto tra naso e genitalità. Strada è ancora lunga, chi lo sa. Stavo bruciando la nostra musichina d'accompagnamento al programma perché volevo chiedere ad Andrea se secondo lui ci vuole il naso anche per noleggiare un'auto giusta. Penso che ci voglia un po' per tutto. Non si è mai cimentato nel noleggio dell'auto? Mi sono cimentato nel noleggio dell'auto e da un punto di vista qualitativo ho fatto sempre degli errori, per cui ho solo da imparare. Abbiamo oggi allora la testimonianza live stamattina da mettere a confronto con il nostro esperto. Allora, è arrivata l'estate, le autostrade si preparano ad accogliere i lunghi esodi di chi, in Italia sono tanti come dicevamo, chi parte da Milano raggiunge la Puglia, pensate un po' che lungo viaggio che si fa. Anche perché poi la Puglia non finisce mai, quando ci arrivi dici adesso sono in Puglia e poi vai, però una terra magnifica. Però se arrivi fino in fondo è meraviglioso. È vero, vale la pena essersi imbarcati in questo lungo viaggio. Noi parleremo appunto oggi di chi sceglie l'automobile per spostarsi e raggiungere la meta delle proprie vacanze. Scegliendo l'auto c'è chi pensa di noleggiarla. e magari lo fa o prima di partire e quindi prenota, oppure lo fa una volta arrivata a destinazione. Allora, proprio a chi noleggia un'auto per appunto affrontare la propria vacanza è dedicato il nostro primo approfondimento di oggi. A cosa fare attenzione quando si sceglie di noleggiare un'auto in occasione di una vacanza estiva? Ce lo spiega oggi Emilio De Leidi, collega caporedattore inchieste di Quattro Ruote. Emilio, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Emilio De Leidi è un grande fan di Cuore Denari, Nicoletta, te lo volevo dire. Sicuramente, buon gustaio, gli piacciono le cose belle. Voi? E così. Voi ovviamente. Noi, le donne anche intelligenti. Sì, dovremmo sentirci più spesso. Adesso cercheremo. Esatto. Ti abbiamo trascurato, oggi recuperiamo rapidamente valorizzandoti per ben 40 minuti nel nostro programma. Evviva. E soprattutto chiediamo ai nostri ascoltatori. Vi è mai capitato appunto di noleggiare l'auto in occasione della vacanza? Come è andata? Raccontatecelo all'800240024. Raccontateci anche se l'avete trovato utile e conveniente. Se vi siete invece scontrati con qualche criticità, chiamateci anche per farci le vostre domande. Se quest'anno la noleggerete proprio per questa estate 2015 per la prima volta, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Potete andare anche a curiosare sui nostri profili social, naturalmente raggiungendo attraverso il sito di Radio 24. Emilio, iniziamo dalle modalità di noleggio. Ovvio, mi pare scontato dire che è meglio informarsi già prima di partire, prenotare già un'auto, oppure è meglio aspettare di recarsi sul posto, conoscere direttamente chi ce la noleggerà, vedere l'auto prima di prendere accordi. Intanto, qual è il modo migliore per risparmiare sul noleggio? Da che cosa partiamo? Allora, io direi che sicuramente dipende molto dalla propria destinazione. Ci sono delle destinazioni in cui d'estate è assolutamente indispensabile prenotare la vettura, perché sennò si rischia di essere sul posto e di trovarsi senza, o essere costretti a prendere quello che rimane, magari una categoria più alta e molto costosa. Penso alle isole, alle isole italiane, in particolare dove la peak season è proprio la nostra estate, penso anche a certe località extraeuropee dove in alcuni periodi c'è una concentrazione di turismo molto accentuata. Detto questo, internet è diventato uno strumento formidabile, nel senso che una volta, quando io vi ricordo noleggiavo i primi anni in cui facevo dei viaggi all'estero, un'auto bisognava rivolgersi alle agenzie, tutto era molto più complicato e costoso. Adesso si possono fare innumerevoli preventivi, confronti, valutazioni e anche non solo sui siti delle singole compagnie che effettuano il noleggio nelle varie località, ma anche sfruttare le offerte in abbinata, certo. Per esempio quelle dei siti di booking di alberghi o aerei online, oppure addirittura quelle delle compagnie aeree low cost. È tutto molto interessante, ma come sempre in questi casi richiede molta cautela, perché nelle prenotazioni online le trappole nascoste, come ha confermato più volte il garante per la concorrenza, l'antitrust, sono le insidie sono molte, sono nascoste. Ah bene, adesso allora ce le individuerai tu per noi. Tra l'altro, a proposito del tempo che gioca sempre a nostro vantaggio, Altroconsumo ha simulato la prenotazione online di un'auto su 10 siti di agenzie per 3 città, Londra, Parigi e Palermo. Per prenotare un'auto ad agosto, i preventivi sono aumentati in più della metà dei casi, prenotando a febbraio piuttosto che a gennaio, e ancora nel 52% dei casi cercando l'auto a marzo rispetto al mese precedente. È chiaro che se ci siamo ridotti proprio adesso a prenotare un'auto che ci serve fra 20 giorni, i prezzi saranno ben diversi. Però questo insomma è così per qualunque cosa, per il volo aereo, per la prenotazione di un hotel. Lo sappiamo bene che la prenotazione a ridosso non è mai molto conveniente, però insomma non è che tutti possano prenotare un viaggio con 8 mesi di anticipo. Veniamo proprio al costo. Allora, quanto si spende? Cosa dicevi, Andrea? Che non è sempre così. Una visita medica non costa diversamente se tu la prenoti il giorno prima o 2 mesi o 3 mesi prima. Questo è un raffronto un po' curioso, però insomma è vero. Emilio, quanto si spende per noleggiare un'auto? Di fronte a quali tipi di tariffe, nel caso in cui dovessimo fare un preventivo, ci troveremo a scegliere? Per esempio, il noleggio di solito è limitato nel tempo e nei chilometri, oppure illimitato? Allora, anche qui ci troviamo come al solito di fronte a una giungla di proposte e di offerte, e l'importante è capire quello che fa per noi. sapere se facciamo tanta strada o ci serve solo per muoverci a breve raggio. Allora in questo caso possiamo accettare quelle proposte che comprendono per esempio 100 km al giorno compresi nella tariffa, altrimenti bisogna assolutamente puntare sul chilometraggio illimitato. E soprattutto la cosa essenziale è capire bene che cosa comprende la tariffa che ci viene proposta, perché molto spesso, è esperienza sicuramente di molti ascoltatori, si fa una prenotazione, si fa un preventivo, si arriva sul posto, prima di ritirare la macchina si scopre che non sono compresi alcune assicurazioni che sono assolutamente fondamentali o altre clausole che fanno addirittura molto spesso persino raddoppiare la cifra che avevamo ipotizzato. Succede. E c'è uno studio recente della Camera di Commercio di Milano che ha proprio analizzato queste caratteristiche e ha evidenziato come in violazione delle norme e delle prescrizioni dell'antitrust ci siano ancora compagnie che non sono assolutamente trasparenti nella loro definizione dei costi all'atto della prenotazione. Esattamente. Breaking news. Una notizia che arriva dalla Francia e che sta creando preoccupazione in queste ore. Un uomo è stato trovato decapitato, a quanto pare, accanto ad una bandiera islamista in una fattoria vicino a Grenoble. Ci sarebbe anche stata un'esplosione in un impianto di gas e ci sarebbero diversi feriti. Si tratterebbe dunque di un attacco terroristico. Maggiori aggiornamenti, maggiori dettagli e ovviamente le notizie per il momento ve le stiamo dando con tutti i condizionali del caso appena ne avremo. Grazie a Simone Spezia, la redazione, per questo aggiornamento. Torniamo al noleggio dell'auto, il tema che stiamo approfondendo nella parte di denari di oggi. Allora, Emilio De Leidi, caporedattore inchieste di Quattro Ruote, ci stava dicendo: attenzione anche a quando facciamo una prenotazione, ovviamente con largo anticipo, attenzione ovviamente a tutte le clausole contrattuali. In realtà qualche volta qualche compagnia non è molto trasparente, poi quando si arriva sul posto e si ha assolutamente bisogno di portarsi via l'auto perché magari si deve raggiungere proprio il posto finale della nostra vacanza, si scopre che le condizioni sono diverse rispetto a quelle che pensavamo di aver pattuito e magari i costi rischiano di aumentare a dismisura. Per esempio, quali sono le sorprese più diffuse che possono verificarsi sul posto, anche se pensiamo di aver fatto una prenotazione secondo tutti i parametri richiesti, Emilio? Beh, per esempio una delle cose da tenere d'occhio sempre è la presenza di franchigie nelle clausole assicurative. La franchigia è quella cifra scoperta che ci viene comunque addebitata qualora succeda qualcosa, anche se la vettura è assicurata. Questo vale nei confronti della responsabilità civile, ma vale anche e soprattutto nella cosiddetta polizza casco, che io consiglio sempre di fare, cioè anche nei danni che magari causiamo noi alla vettura. Se però abbiamo uno scoperto di 500 euro e rompiamo per esempio uno specchietto perché noleggiamo, faccio un esempio, in Irlanda, circoliamo contromano per noi, cioè sulla sinistra, non abbiamo bene l'ingombro della vettura, ci capita di sfiorare un muretto, rompere uno specchietto, lo specchietto costa 400 euro, ce le paghiamo tutti noi anche se siamo assicurati. Benissimo. Questo è un esempio molto pratico, ma sono quelle cose sulle quali bisogna stare attenti. Guarda Emilio, lo scrive proprio Giuseppe da Pistoia: consiglio nel noleggio di un'auto nei paesi con guida contraria di fare l'assicurazione casco completa, specialmente per chi a casa è abituato a guidare un'auto con cambio automatico. Però insomma anche Giuseppe segnalava soprattutto una particolare attenzione per i paesi con guida contraria. Altro tema fondamentale, qui avevo in mente di trattarlo già da ieri, ce lo segnala Tina: doversi dotare di carta di credito quando ci si rivolge ad una società di noleggio auto, perché non si accettano modalità di pagamento diverse, ma praticamente ti chiedono quasi tutto l'anticipo cash, no? Se non è la garanzia della carta di credito. Emilio, io il mio primo viaggio a Madrid con mia cugina, siamo arrivate là tutte belle, simpatiche, intenzionate a prendere un'auto all'aeroporto, e tutto il denaro che avevamo con noi l'abbiamo dovuto lasciare lì sopra, perché proprio due Alici nel Paese delle Meraviglie non avevamo la carta ancora. Sì, però eravamo molto giovani. Emilio De Leidi. Già ieri. Sì, la carta di credito. L'altro weekend. Magari. Emilio. Sì, la carta di credito credo che sia assolutamente indispensabile. Addirittura in alcuni casi per i top di gamma, magari qualcuno che ci ascolta è desideroso di noleggiare per una volta nella vita una vettura di altissime prestazioni o di costo o di caratteristiche particolari, ne vengono richieste due e un'età superiore ai 25 anni. La cosa particolare è che però la cifra che viene depositata come cauzione viene bloccata sulla carta di credito, quindi noi dobbiamo stare attenti anche al plafond della nostra certo. carta di credito. Faccio anche qui un esempio: se noi abbiamo un massimale molto diffuso di 2.500 euro al mese e ce ne bloccano 1.500, ci troviamo, non è che ci vengano detratti, ma sono congelati, certo. non possono essere spesi, ci troviamo con soli 1.000 euro disponibili e magari non bastano per le spese che dobbiamo affrontare durante la vacanza. Questa è una cosa molto molto delicata che bisogna chiarire subito, la sombra che viene bloccata come cauzione, come deposito, ed eventualmente io suggerisco anche per tutte quelle carte di credito che segnalano con SMS magari o comunque online i movimenti, di verificare quale cifra viene, perché spesso può capitare che venga fatta con della valuta locale che noi non conosciamo e quindi verificare esattamente quale cifra viene congelata e essere sicuri di avere una disponibilità residua sufficiente. È proprio quello che è capitato ad Antonio D'Avellino, che sentiamo subito all'800240024. Antonio. Sì, buongiorno a tutti, grazie per aver accettato l'invito di intervenire, complimenti per il servizio puntuale che fate tutti i giorni. Io vi ascolto sempre perché vado sempre in macchina, quindi vi seguo continuamente. No, il mio intervento è molto molto simile, quasi speculare a quello di Emilio. Quello che vorrei aggiungere è che io c'è un episodio l'anno scorso in Sardegna, mi sono trovato in grossa difficoltà per questo fatto, proprio perché ovviamente la media degli italiani hanno un plafond, secondo me, correggetemi se sbaglio, di circa 2.000 euro su una carta sì tipo, no? Quindi quando poi ti fanno a togliere o a bloccare certo. una somma 1.000-1.500 euro, tu rimani sconcertato. E la carta è indisponibile, quindi aumentiamo il plafond se sappiamo Attenzione, appunto che facciamo. Io ho fatto la prenotazione online e tutte queste cose non erano chiare, tra l'altro da una grossa società. Però poi che cosa è successo? Che proprio si è verificato un episodio all'italiana, diciamo così, che poi mi ha lasciato ancora più sconcertato, anche se felice. Nel senso che poi l'impiegato, che non poteva farlo, ha detto vabbè, mi prendo a garanzia il numero di carta, andiamo avanti e continuiamo così anche se tu non ce la fai col plafond. Cioè anche questo succede poi in Italia. Lo so, no? Però diciamo che poi la buona però... disponibilità di un operatore non è che si può trovare, ci sono dei professionisti che devono fare poi gli interessi invece dell'azienda e difficilmente vengono incontro in questo modo invece alle esigenze dell'automobilista. Comunque grazie Antonio per la sua testimonianza, perché la mettiamo a disposizione di tutti gli ascoltatori che magari quest'anno si cimenteranno per la prima volta con il noleggio di un'auto e a questo aspetto magari non hanno pensato. Sentirei anche Grazia da Modena, sentiamo un po' questa giovane, così mi sono avventurata io nel dirlo. Grazia, buongiorno, non so perché buongiorno. Mi sia venuto, lo sarà senz'altro. No, non proprio. Comunque, volevo raccontare la mia esperienza. Intanto siete bravissime, quando posso vi ascolto, mi piacete moltissimo. Ottimo. Allora, la mia esperienza che mi ha fatto una rabbia che ancora a pensarci mi rode. Ho preso l'aereo, poi ho noleggiato la macchina al punto di arrivo per arrivare a destinazione, in Olanda. Quando sono arrivata, la macchina che avevo prenotato una Micra, una macchina normalissima, senza optional, sì, una piccola macchina, e ho pagato al momento della prenotazione, ho pagato tutto. Sono arrivata là, la macchina non c'era. Ho aspettato più di un'ora perché dovevano cercare la macchina, di sguido, il computer non funziona, bla bla bla bla. Dopo un'ora che non c'era neanche un altro mezzo per poter raggiungere Amsterdam, mi hanno dato una macchina da 7 posti, molto bella, spaziosa, ma noi eravamo in due, ci serviva proprio niente. Potevamo venire anche io, Nicoletta, Andrea Salonia, praticamente c'è il posto per tutti per questa vacanza, anche Emilio De Lady poteva venire con noi. E quindi grazie, come è finita? Niente, io ho chiesto se il costo era uguale, perché effettivamente c'era un'amica con la macchina e loro mi hanno assicurato che siccome la colpa era la loro, non mi avrebbero addebitato niente. Però questa macchina era molto ricca di optional, perché aveva il navigatore, aveva le ruote antineve, aveva il cambio automatico, insomma alla fine mi sono arrivati sulla carta di credito 280 euro in più di quello che avevo già pagato. Allora andiamo subito al volo ad Emilio Dele, anzi no, adesso sentiamo la borsa. Emilio poi ci suggerirà quello che sarebbe stato possibile fare per tutelarsi. Di fatto non era colpa sua, no, se l'auto che aveva chiesto non era disponibile, per cui io ritengo che non avrebbe dovuto pagare questo denaro in più, anche parecchio, però se poi non ti tuteli immediatamente perdi, come dire, va in prescrizione la tua richiesta. Però sentiremo Emilio tra poco, intanto mercati. Invesco per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero, il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Leggo dentro i tuoi occhi, da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. I drammi del... Grande, piccolo, corto, lungo, dritto, storto, prominente, aquilino, all'insù, schiacciato, il naso, secondo la fisionomica, fornisce indizi per individuare la personalità del suo possessore. Che idea ti sei fatta, Deborah? Guardando il naso di Andrea, ma lo metteremo... che è perfettamente enorme. Ma è perfettamente enorme. No, e si addice al visino che ha. Faremo una fotografia del naso di Andrea Salogna e la posteremo su Facebook. Bene. Vediamo che idea si fanno il i nostri giorno dopo ascoltatori. Direttamente il sito. Allora, fisionomica a parte, il naso lo sappiamo, non solo respira, ma cattura gli odori, li intercetta, li riconosce, li archivia, ma lo fa in modo molto intelligente. Infatti, basta usare e il passato pluff torna a galla, nulla viene perso. Non è straordinario? L'olfatto è un senso primitivo e istintivo, guida le nostre scelte, condiziona le nostre relazioni, noi non ce ne rendiamo conto ma lo fa, è un senso che fa viaggiare le nostre emozioni. Questione di naso, questione di feeling, ne parleremo tra poco con Andrea Salogna, uroandrologo di Salute Uomo, e Matteo Trimarchi, che è professore associato di otorino alla laringoiatria all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Andrea, scopriremo che il naso orienta anche un andrologo. Certo, in positivo e in negativo. Io vi conosco, siete tutti ladri. Ogni volta che aprite bocca aumentate il prezzo. Sì, è vero. Sono io che devo parlare. Io le dico cosa voglio e cosa sono disposto a pagare. Lei ha seguito il mio ragionamento? Come no? Le va pennello? Come te la senti, caro? Ah, me la sento bene. Ah, è scicchissimo. Altro che... tagliata su misura. Ecco, non basta accontentarsi che l'auto che noleggiamo sia scicchissima o ci calzi a pennello, anche se in vacanza anche l'occhio vuole la sua parte. Pensiamo prima di tutto alla sicurezza, rapporto qualità del servizio prezzo quando ci troviamo a noleggiare un'auto in vacanza, e di questo stiamo parlando in questa prima parte di Cuore Denari oggi, raccogliendo tutti i consigli utili che stiamo dando ai nostri ascoltatori anche attraverso le vostre testimonianze e gli episodi che vi sono capitati. Con noi come esperto di turno Emilio Deledi, caporedattore inchieste di Quattro Ruote. Allora Emilio, abbiamo ascoltato l'esperienza dell'ascoltatrice di prima, andata ad Amsterdam, era convinta di aver noleggiato, aver prenotato quantomeno una piccola utilitaria, l'auto non era disponibile, la società di noleggio ne consegna un'altra piena di optional, grandissima, non era quella che voleva, e lì ci sarebbe bisogno di mollarla là. Il tema è capire anche se magari in virtù di una prenotazione già fatta poi paghiamo anche delle penali, no? Come ci si comporta in questi frangenti? Beh, purtroppo il caso citato da Grazia è tutt'altro che infrequente e crea questo clima di reciproco rispetto tra chi noleggia l'auto e le società di noleggio, di sospetto, di scarsa fiducia. È difficile, bisogna che queste cose vengano messe per scritto, cioè la parola dell'operatore, ti faccio la stessa tariffa, ti do una macchina più grossa, non è sufficiente, perché poi loro hanno in mano i dati della carta di credito. ci possono addebitare quello che vogliono e poi sta a noi contestarlo con tutte le difficoltà che ne conseguono. Quindi io consiglio, se in questi casi se è possibile, di far mettere per scritto che non si deve nulla, ma che questo è anche relativo agli eventuali optional, perché io temo che la società in questo caso non abbia addebitato il costo della vettura, perché non poteva farlo, della vettura di categoria più grande, ma il fatto che avesse per esempio il navigatore, che è una cosa che spesso si paga a parte, il cambio automatico che può essere in certi casi pagato ma a parte. Ma Grazia avrebbe dovuto, quel sovrapprezzo di 280 euro, avrebbe dovuto contestarlo subito secondo... Assolutamente, ma probabilmente si è trovato a posteriori sulla carta di credito, come sempre accade, per quello che dicevo di controllare man mano che vengono fatti gli addebiti, se è possibile, con i sistemi online o con gli SMS. Sì. Ancora due avvertenze, se mi permettete, che vorrei dare. Uno riguarda le assicurazioni supplementari, nel senso che non bisogna assolutamente lesinare sulla RC auto e sulla casco a protezione del veicolo, però ci sono alcune coperture, tipo gli infortuni degli occupanti o il bagaglio, che magari non ci interessano, perché noi abbiamo per esempio una polizza aziendale o personale sugli infortuni, quindi se ci facciamo male noi non siamo interessati ad avere un risarcimento, noi o le persone che trasportiamo, perché abbiamo una copertura personale, e questo è un risparmio, non ce la devono imporre. E tante volte devi sui siti escludere manualmente le crocette relative a queste assicurazioni che invece vengono inserite per default, e quindi attenzione quando si fanno questo tipo di prenotazioni. Seconda cosa, il controllo della vettura al momento del ritiro. Bravo. Esatto. Essenziale. Ecco, quindi no, me ne parlavamo proprio in un'altra puntata con Nicoletta, microfoni spenti. Era capitato a te di aver trovato su un'auto che avevate noleggiato una piccola ammaccatura e ti eri spaventata? L'hai segnalata subito. Al noleggiatore. Non conoscevo neanche Deborah così bene, non ci frequentavamo neanche così, ma già aveva avuto l'intuizione di segnalare subito al signore che stava noleggiando l'auto: guarda che qua l'ammaccatura c'è adesso, c'è già, quindi non contestarmela quando te la riporto. Però lui non mi aveva scritto niente, né io gli avevo chiesto di, invece se mi capitasse ora, vero Emilio, sì, dovrei dire al signore, oppure guardi, facciamo una foto, facciamo una foto e lei mi scrive che gliel'ho segnalata, eccetera. Questo danno invece c'è, ci siamo già un po' basati sulla fiducia, tra l'altro ben riposta, perché poi quando l'ho riconsegnata ha detto sì me l'aveva già segnalato. Emilio, no, questo è indispensabile, soprattutto in certi paesi diciamo meno così sviluppati, dove le auto hanno più chilometraggi più alti, le condizioni sono peggiori. Cito per esempio, per esperienza personale, in Messico invece che gli Stati Uniti, piuttosto che alcune isole greche e così via. Qui bisogna che venga messa per scritto quelle che sono le condizioni effettive della vettura, gomme comprese, e controllare che ci sia la gomma di scorta, perché poi qualcuno, se per caso non c'è e non c'era già all'inizio, magari pensa che ce la siamo venduta e ci contesta la stessa della roba di scorta. Quindi purtroppo diamo un'occhiata veramente, come i maestri sono quelli che noleggiano i charter delle barche. Chi prende in consegna una barca fa una radiografia totale. Ecco, dovremmo imparare da loro. Ecco, diciamo che non sarà il nostro caso per le prossime vacanze, perché io e Nicoletta invece stiamo già immaginando di andare di scooter. Le regole per il noleggio di uno scooter sono le stesse per il noleggio di un'auto, immagino, Emilio. Le attenzioni da fare, gli strumenti di pagamento, le assicurazioni, o c'è qualche avvertenza in più? No, direi assolutamente sì, sono le stesse. E il principio riguarda il noleggio di un veicolo, questo può essere un Natant, un veicolo a due ruote, un veicolo a quattro ruote, una piccolo, grande, eccetera. Cioè assicurazione, verifica delle condizioni, clausole scritte e controllare che non ci venga propinato qualcosa che noi non riteniamo strettamente necessario, perché poi ci viene comunque addebitato. Ancora un paio di testimonianze, devono essere telegrafiche se ce la facciamo con i nostri ascoltatori, tanto per arricchire ancora la casistica, da mettere a disposizione degli altri ascoltatori che non hanno mai noleggiato, quindi stamattina, quindi fanno un buon elenco di tutte le precauzioni da adottare. Sentirei molte donne peraltro oggi, guarda, Cristina da Novara. Buongiorno, volevo raccontare la mia esperienza, che è perfettamente in linea con quello che avete detto. Un mese fa ho prenotato un'auto al momento in cui andavo a fare una vacanza in Spagna, al momento dell'acquisto del biglietto con una compagnia low cost, e il prezzo poi al momento del ritiro dell'auto è più che raddoppiato per l'assicurazione. E poi l'altro aspetto molto importante è fare le foto prima, al momento del ritiro dell'auto, e anche quando si lascia nei parcheggi dei degli hotel piuttosto che non, insomma, dove si visita, dove si lascia la macchina parcheggiata, fare le foto in modo da prendere le targhe delle auto di lato. Vicino. Può essere utile al momento in cui si trova poi un ma problema. Ma quante ne sa Cristina? Ma senti tu che donna di mondo che abbiamo avuto modo di ascoltare. Anna da Bologna, Anna buongiorno, rapidissima, grazie. Ho sempre noleggiato all'estero macchine, mi sono sempre trovata benissimo perché abbiamo seguito tutte le regole che avete elencato adesso. Invece io qualche anno fa sono andata a Legazpi a Favignana e abbiamo noleggiato la macchina sul posto. C'era il noleggio presso il villaggio e un noleggio di una ditta nella piazzetta del paese. Nella piazzetta del paese abbiamo preso alcuni amici due macchine, ci sembravano in ordine e le condizioni sì, tutto a posto, assicurate, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo tornati al villaggio, il mattino dopo abbiamo trovato le nostre macchine con le quattro ruote tagliate. Breaking news. Ancora un aggiornamento su quello che sta succedendo in Francia, il luogo è tra Lione e Grenoble, vi abbiamo raccontato poco fa dell'ipotesi che fosse un attentato terroristico, un uomo è stato trovato decapitato, c'è stata un'esplosione in quello che sembra essere il più grande deposito di idrogeno, uno dei più grandi depositi di idrogeno della Francia, ci sono molti feriti. L'ultima notizia è che è stato fermato dalla polizia un uomo intorno ai 30 anni, a quanto pare avrebbe mostrato un drappo jihadista. Maggiori aggiornamenti nel giornale radio delle 12. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Solo 30 secondi di tempo per salutare Emilio De Leide che ci ha accompagnato nella prima parte di Cuore Denari e ci ha dato tutto il vademecum, naturalmente da rispettare alla lettera più o meno, per poter noleggiare in tranquillità l'auto delle nostre vacanze. Emilio, grazie naturalmente, tutte le possibili disavventure le abbiamo affrontate e se ce ne fossero altre invitiamo gli ascoltatori a scrivercele a Cuore Denari, le confronteremo con te, voi magari pubblicherete queste testimonianze su quattro ruote. Emilio. Certo, grazie, comunque viaggiate sereni, che girare in auto d'estate è una cosa bellissima, non vorrei aver spaventato troppo gli ascoltatori. No, assolutamente, insomma ogni situazione naturalmente ha delle potenziali disavventure di cui aver consapevolezza. Adesso è lo spazio di Salute Uomo. Meglio, avrebbe detto il lupo nonna di Cappuccetto Rosso, che credeva di dire una bugia, invece dicevo una verità dimostrata anche dalla scienza, che il naso degli uomini sia più grande di quello delle donne sotto gli occhi di tutti. Dato che la natura però non fa le cose a caso, evidentemente le dimensioni contano e servono anche per il naso. Chiedo subito conferma ad Andrea Salonia, uroandrologo di Salute Uomo, che ha ideato insieme a me e a Deborah questo progetto di comunicazione originale e innovativo. Andrea. Beh, è certamente vero. Lavora a San Raffaele. Lavoriamo. Perché ormai io lo presento a piccolo Deborah, piccolo come amici, uroandrologo amici di Salute Uomo. Sì, in realtà, è nostro. In realtà è del San Raffaele. Prestato poi anche alla radio. Certo, ribuongiorno a tutti. In realtà il dato delle dimensioni è sicuramente importante. In termini pratici abbiamo parlato alcuni mesi fa, forse ve lo ricorderete, con il nostro esperto andrologo di Bologna, delle dimensioni del pene, dei quali fossero l'importanza attribuita dal punto di vista medico da un lato e dal punto di vista soggettivo dall'altro. Il dato delle dimensioni del naso, l'hai proprio ben detto tu, Nicoletta, poco fa, ha un suo ruolo. Scientificamente si pensa, almeno questa è una delle ipotesi postulate, che le dimensioni del naso corrispondano alla possibilità di una maggiore ossigenazione dei tessuti e quindi maggiore la quantità di aria che entra all'interno delle coane, cioè delle narici, maggiore la probabilità che i tessuti vengano ossigenati. Gli uomini avrebbero dimensioni nasali più grandi perché la massa magra, quindi quella dei muscoli, da ossigenare sarebbe sostanzialmente maggiore o meglio. Questo potrebbe essere un primo tipo di valutazione, anche se esiste un'ulteriore valutazione da fare. Sembra, altri dati dello stesso tipo dal punto di vista scientifico, che anche origini diverse possano avere nasi diversi. I tedeschi rispetto ai cinesi potrebbero avere dimensioni diverse del naso, benché la massa magra sia paradossalmente superiore nei cinesi di quanto non sia nei tedeschi. Abbiamo tanto da scoprire, questo è il bello della medicina. Quindi, se qualcuno ironizza sulle dimensioni del vostro naso, sapete cosa rispondere. Ma adesso è tempo di presentare e salutare il professor Matteo Trimarchi, professore associato di otorinolaringoiatria all'Università Vita Salute San Raffaele, che ci ha raggiunto qua in studio per questa puntata di Salute Uomo. Buongiorno professore, grazie. Grazie a lei, buongiorno e buongiorno a tutti. Professore, sarà più grande, Andrea ci ha spiegato i motivi, ma nonostante lo spazio, a volte l'aria inspirata non riesce a passare agevolmente tra naso e gola e sono concerti. Parliamo di russamento, gli uomini sembrano essere naturalmente inclini al calare della notte a trasformarsi in trattori, motoseghe, camion. Anche le donne, io lo ammetto subito, anche noi donne poi russiamo, ma sicuramente dopo, no, dopo la menopausa, ecco, siamo russatrici un pochino più in là nel tempo rispetto agli uomini. Non mi contraddica, professore, perché sennò i nostri ascoltatori poi mi dicono tu stai sempre dalla parte della donna. Comunque, un adulto su quattro soffre di russamento e ho letto, professore, che il volume sonoro può raggiungere i 90 decibel, come un rumore di un camion e di un martello pneumatico. Ma è davvero così? Sì, effettivamente è così, perché le dimensioni esterne che noi vediamo del naso non corrispondono però realmente allo spazio che c'è all'interno. Per cui in un paziente con un naso grosso, di fatto lo spazio all'interno del naso potrebbe essere molto ridotto. Ci sono diverse componenti all'interno del naso. Il naso ha questo aspetto estetico che noi consideriamo sempre, ma ha una serie di funzioni fondamentali, perché il naso umidifica l'aria che respiriamo, il naso riscalda, filtra, e filtra anche in parte l'aria che respiriamo, oltre a tutta la funzione olfattiva del naso, che è peraltro fondamentale pure quella. Il paziente che russa molto spesso ha una problematica respiratoria nasale. Ora immaginiamo il naso come se fosse, anziché la parte che noi vediamo sul viso come una scatola di scarpe, immaginiamo di dividerla in due parti. All'interno di questa scatola noi abbiamo sulle pareti laterali delle strutture che si chiamano turbinati. Quindi il flusso di aria all'interno di questa scatola può essere modificato sia dalla parete divisoria sia dalle strutture che ci sono lateralmente, che si chiamano turbinati. Quindi in un paziente con una deviazione del setto nasale ci sarà una riduzione del flusso nasale, ma anche in un paziente con un'ipertrofia dei turbinati ci sarà un'ostruzione della respirazione nasale. L'abbiamo lì è proprio la scatola di scarpe, la stiamo visualizzando. Professore, noi abbiamo affrontato insieme a Deborah tante volte il tema del russamento. Il messaggio è che chi russa non solo disturba il vicino, ma potrebbe mettere a rischio la propria salute, oltre che il matrimonio. Vogliamo sensibilizzare allora i russatori e i compagni di letto, professor Trimarchi, a non sottovalutare il russamento, ma un russamento particolare? Assolutamente sì, io so peraltro che voi avete avuto più volte in trasmissione il professor Ferini Strambi, avete certo già parlato di questo argomento, e quando noi vediamo dei pazienti che russano dobbiamo assolutamente sempre riuscire a capire in quale gruppo esattamente si trovano. Esistono dei pazienti che producono russamento e quindi molto rumore, esistono dei pazienti che oltre al rumore hanno delle problematiche di apnea. Allora il problema è molto diverso, perché se il rumore può disturbare il compagno o la compagna, perché pazienza, effettivamente è vero che l'uomo ha una percentuale superiore di russamento, ma ci sono diverse donne che effettivamente russano, cioè quando diciamo che il 4% degli uomini russa, diciamo che c'è anche un 2% di donne, per cui l'uomo sicuramente è più predisposto, ma c'è anche una buona fetta anche di noi donne. Cerchiamo di recuperare, vogliamo la parità anche a quota rosa anche lì. Per cui è fondamentale fare questo esame che si chiama polisonnografia per riuscire a capire se nel momento in cui noi russiamo abbiamo degli episodi di apnea e nel momento in cui cui noi abbiamo l'apnea abbiamo una desaturazione di ossigeno e quindi possiamo risentirne sia a livello di cuore che di cervello. I russatori sono più stanchi, sono più affaticati, hanno dei problemi a rimanere svegli a volte durante il giorno, sono pazienti a cui negli Stati Uniti viene tolta la patente proprio perché diventa un rischio dare la patente a un paziente che va in apnea di notte. Per cui è sempre fondamentale riuscire anzitutto a capire se il paziente produce rumore e ha anche apnea con desaturazione o se produce solo rumore. Andrea, come ha anticipato il professor Trimarchi, di apnea noi ce ne siamo occupati, abbiamo avuto il professor Ferini Strambi che è un esperto di disturbo del sonno, ma anche otorini, neurologi, chirurghi, anche gli andrologi sono interessati in qualche modo al tema, o meglio al problema, ci spieghi? Sì, sono interessati gli urologi e gli andrologi a tutto tondo per due motivi. Sostanzialmente il primo è legato al fatto che queste sindromi da apnee notturne si associano a una minor salute in generale e il professor Trimarchi Matteo, per me che è grande amico, fondamentalmente soffrono di maggiori problematiche della sfera cardiovascolare e soprattutto questo vale per i maschietti molto più di quanto non valga per le femminucce. In termini genitali ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è che 7 uomini su 10 di quelli con sindrome da apnea notturne soffrono di problematiche legate alla sessualità, cioè hanno disfunzione dell'erezione, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, sempre, scusa, dimmi la percentuale. 7 uomini su 10, altissimo. Il dato importante è che in linea di massima si è dimostrato come la terapia delle prime, quindi curare le problematiche legate alle sindrome di apnee notturne, migliori anche la qualità dell'erezione in una percentuale piuttosto importante. Laddove questo non fosse vero, si possono utilizzare dei farmaci e questo l'abbiamo detto più e più volte. Il secondo elemento importante, che non riguarda solo l'aspetto, se vogliamo, ludico della sessualità, è quello legato ai disordini menzionali, cioè è molto più frequente che i soggetti con sindrome delle apnee notturne abbiano un sonno disturbato da un lato e dall'altro debbano andare a far pipì molto più spesso, soffrono di quello che noi chiamiamo nicturia, cioè un aumento della frequenza notturna delle levate condizionate dalla necessità di urinare. Questo pensano alla prostata, in realtà potrebbe essere l'apnea. Esattamente sì, ci sono molti modi per spiegarlo. 800 24 00 24, parleremo di questo ma anche di altro, perché il naso è anche altro, è l'organo del senso più vicino al cervello, diciamo che i due sono collegati da una scorciatoia. L'olfatto infatti è l'unico senso a contatto con quella parte del cervello che controlla le emozioni. Quindi annusate, registrate, chiamate, noi torniamo subito dopo il nostro GR. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Radio 24 è al padiglione Cibus Italia a Expo Milano per una settimana con una programmazione da non perdere. Ti aspettiamo dal 29 giugno al 5 luglio con dirette e programmi speciali al padiglione Cibus Italia, dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Info su radio24.it. In collaborazione con... Federalimentare e con il gruppo Cariparma Crédit Agricole. Cuore e denari. Buon naso. Eccoci, siamo tornati insieme. Oggi la puntata di Salute Uomo è dedicata al naso maschile naturalmente. Ne stiamo parlando con Andrea Saloni, uroandrologo di Cuore Denari e del San Raffaele, e con il professor Matteo Trimarchi, associato di Otorino Laringoiatria all'Università Vita Salute San Raffaele. Abbiamo iniziato a parlare di dimensioni del naso. Il naso è grande, ma la natura fa le cose per bene, grande perché serve. Abbiamo parlato, abbiamo sottolineato il rischio che corrono le persone, uomini e donne, che russano la notte, quindi l'importanza di valutare se soffrono di apnee notturne, e Andrea Saloni ha fatto un collegamento importante tra il russamento notturno e gli aspetti andrologici del problema. Esatto. Ma questo immagino, Andrea, che non sia solo uno, l'unico dei legami con tra Torino, andrologo e Torino. No, ci sono due legami importanti. Il primo è un legame squisitamente anatomico. Matteo poi ci spiegherà magari meglio con la sua capacità anche immaginifica di definire le cose. Ed è legato al fatto che l'anatomia assimila i corpi cavernosi del pene a quelli che sono i corpi cavernosi dei turbinati, di cui Matteo ha appena parlato, all'interno delle nostre narici. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è squisitamente funzionale ed è legato al fatto che già di per sé lo stato di eccitamento sessuale induce una congestione peniena e una congestione di questi turbinati nasali, per cui non è diciamo infrequente che ad una stimolazione eccitatoria sessuale corrisponda una congestione all'interno delle coane. Questo, Matteo ce lo spiegherà poi meglio dopo, si associa soprattutto all'assunzione di farmaci dedicati alla promozione dell'erezione peniena in quanto tale. Allora, abbiamo capito il messaggio di un ascoltatore che al 349-238-6666 ci scrive che in Sicilia si dice tale naso, tale fuso. È possibile, e questo mi sembra un po' ludico o diciamo scherzoso, ma è certo vero che esiste una forte correlazione tra le due. A me piacerebbe chiedere al professor Trimarchi e a Matteo se effettivamente questo sia il caso, ad esempio in quegli uomini che per un problema di disfunzione erettile, che abbiamo visto essere molto frequente nei soggetti con sindrome delle apnee notturne perché affetti da ipertrofia dei turbinati, questo abbia un significato ad esempio nell'assumere i farmaci famosi che promuovono, tipo il famoso Viagra, la qualità dell'erezione in questi uomini. Beh, anzitutto cerchiamo di immaginare cos'è un turbinato, perché noi sappiamo che il turbinato è sulla parete laterale di questa scatola di scarpe di cui abbiamo parlato prima. Il turbinato ha la dimensione di un dito indice più o meno e si pone dall'inizio della valvola nasale della narice fino alla parte posteriore del naso. Questa struttura ha appunto all'interno un corpo cavernoso, per cui a secondo dei momenti può essere un po' più grosso, un po' più piccolo, o per dirla in maniera più precisa, ogni 4-5 ore, se noi stessimo nella stessa posizione a temperatura e umidità stabile, avverrebbe un'alternanza fra il turbinato di sinistra e quello di destra. La struttura del corpo cavernoso fu proprio quella che portò me e Andrea a conoscerci attorno al 2003, quando iniziamo questa ricerca. Galeotto fu il turbinato, insomma. Esatto, perché effettivamente i farmaci che agiscono sull'erezione del pene agiscono anche sull'erezione del turbinato. Si può proprio parlare di erezione del turbinato. E questo disturbo veniva descritto anche nei primi del Novecento, quando le coppie in viaggio di nozze, in luna di miele, ritornavano e il marito descriveva che durante la luna di miele era felice, tutto molto bene, ma descriveva questa frequenza di naso chiuso superiore rispetto alla norma, e avendo iniziato appunto una serie di rapporti durante la luna di miele, hai il visto? Naso rimaneva sempre congesto. Quindi anche questa è un'indicazione da annotare, perché fuori onda dicevamo che in fondo Salute Uomo, Andrea, è una trasmissione per cercare l'uomo ideale. Detto così, hai detto tu, No. Io ho detto solo che state cercando di ghettizzare l'uomo perfetto, che non è probabilmente quello, allora, che nella vita quotidiana si trova. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate per saperne di più, per raccontarci come sta il vostro naso, il naso anche del vostro compagno. Se siete donna, parliamo di russamento, di apnee notturne, ma vogliamo parlare anche di olfatto. Noi l'abbiamo relegato tra i sensi minore, male abbiamo fatto, perché come i medici ci dicono, gli esperti ci spiegano, il naso tra tutti gli organi di senso è quello più vicino al cervello. Gli odori che cattura infatti vanno dritti dritti a stimolare le aree del cervello viscerale, una delle zone più arcaiche del nostro cervello, e scatena comportamenti e risposte immediate, senza darci il tempo di riflettere, tanto che diciamo, non so perché, ma a naso non mi piace, oppure ho subito fiutato, che, senza dimenticare che ci si sceglie a naso, e non è un modo di dire, Andrea. Pensiamo anche al bambino che riconosce proprio a naso la sua mamma. Questo è assolutamente vero. Tutto ciò ci fa pensare a un termine che siamo soliti sentire ormai da più di 50 anni. Il termine era feromoni. I feromoni erano un po' quelle molecole, o sono un po' quelle molecole, che rilasciate da un animale, e qui ci affidiamo a questo termine anche per gli uomini, vengono disperse nell'etere e servono per dare, per indurre, per causare una specifica reazione in un secondo animale. Questo era un po'... È una forma di linguaggio. Linguaggio senza parole. Esattamente, questo è molto più peculiare degli animali, perché gli uomini sono un po' più raffinati e hanno nella multiqualità, nella multisensorialità, un po' il loro punto forte: la vista, l'udito. La voce ha più impatto di quanto non abbia l'olfatto, la vista soprattutto ha impatto anche in termini di reazione sessuale. Questo è estremamente importante, perché la componente, diciamo, olfattiva che ci lega in termini di affinità, in termini erotici, in termini sessuali, è un po' inconscia, quanto invece è prettamente conscio ciò che osserviamo con la vista e ciò che percepiamo con l'udito. Ma è certamente vero che questi feromoni agiscono e vengono rilasciati da quelle che noi chiamiamo ghiandole apocrine. Ne abbiamo soprattutto sotto le ascelle a livello inguinale, e sostanzialmente questo ha un ruolo nella interrelazionalità in ambito sessuale, riproduttivo e non solo, che è, come dicevi ben tu, Nicoletta, arcaica e filogeneticamente preservata. L'abbiamo fin dagli insetti. È il naso che ci guida, diciamo. Il feromone. 800 24 00 24, e quindi le vostre domande per naso, apnee notturne, per turbinati che scatenano i nostri ascoltatori. Professor Trimarchi, chi si è operato ai turbinati, ci scrivono più persone, ha difficoltà a ritrovare l'olfatto vivace come prima dell'intervento. È possibile? No, in realtà non è proprio così, perché chi fa un intervento sui turbinati dovrebbe aumentare lo spazio all'interno delle fosse nasali, quindi migliorare il flusso aereo e quindi anche migliorare l'olfatto. Quindi se l'intervento ha avuto un decorso normale, l'olfatto non dovrebbe assolutamente peggiorare. L'olfatto peggiora quando ci sono delle problematiche a livello delle fosse nasali, quindi questo può essere dal semplice raffreddore, sì, che tutti abbiamo nel corso dell'inverno, o a chi l'ha un po' più spesso nel caso di forme allergiche, e quindi a secondo della stagionalità, o ci sono anche forme chiaramente perenni. Chi è allergico agli acari e alla polvere purtroppo ha una problematica perenne di ostruzione nasale, o a chi sviluppa anche patologie, perché nel naso si possono anche sviluppare, sono uno stimolo infiammatorio, delle formazioni polipoidi. Questo cosa vuol dire? Immaginiamo che all'interno del naso la tappezzeria che lo riveste si rigonfi come delle un piccolo bolle. Palloncino. Sì. Quindi questo palloncino si gonfia sempre di più fino a occupare a volte anche completamente la fossa nasale. Queste sono patologie assolutamente benigne, che non hanno alcuna possibilità di degenerare nulla di peggio, però sono estremamente fastidiose perché bloccano il passaggio dell'aria, e quindi, oltre ad avere una cattiva respirazione, che è quello che principalmente dà fastidio al paziente, ma di fatto riduce anche l'olfatto. Quindi se il vostro naso si tappa, si chiude, se il vostro naso gocciola, se il vostro naso non cattura più gli odori come una volta, 800 24 00 24. E intanto abbiamo i nostri ascoltatori pronti a intervenire. Stefano da Milano. Buongiorno a tutti, sono un collega psichiatra che credo che le infila un po' tutte quelle che avete detto. Mercoledì ho l'appuntamento con un altro amico a Torino per farmi vedere, perché mia moglie, non per disfunzione erettile ma per ragioni legate al fatto che non mi sopporta più nella camera, mi dice che io ogni tanto si spaventa che proprio interrompo la respirazione e russo come un trattore. Io volevo sapere una cosa, perché adesso io peraltro sono stato anche già operato ai turbinati un po' di anni fa e adesso sento che ho una narice completamente tappata, però volevo capire un'altra cosa. A vostra esperienza, qualcuno dei vostri pazienti si sveglia con il mal di testa con una frequenza dalle 4 alle 5 volte alla settimana, alle 5 del mattino, con un orologio svizzero? Perché è una cosa che invece a me questa preoccupa molto di più, e devo prendere ogni giorno dei farmaci per contenere questo sintomo che è molto molto molto disturbante. Potrebbe fare la terapia preventiva, ma grazie, questo ci... Te lo lasciamo dire bene. Professor Trimarchi, ci può essere un collegamento tra apnee notturne e mal di testa? Sicuramente sì, perché in un paziente che russa e va in apnea c'è una minore ossigenazione, sia a livello cardiaco ma anche a livello centrale, per cui un paziente che ha gravi episodi di apnea, oltre a essere più stanco il giorno dopo, può avere episodi di cefalea. Il fatto di svegliarsi a una particolare ora in realtà non è particolarmente indicativo. Il discorso che faceva invece relativo all'ostruzione nasale dopo la turbinoplastica è una cosa non normale, per cui dovrà sicuramente fare una valutazione con l'otorino, che si fa con uno strumento che si chiama endoscopio, si entra con una microtelecamera nel naso e si va non ad analizzare. Non è doloroso, però io l'ho fatto, non è fastidioso. No, non è doloroso. Insomma, ci sono cose più piacevoli nella vita. Beh, come sì, dire, però è una cosa sopportabile. Che si fa senza l'utilizzo di anestetico, è una cosa che dura pochi secondi e quello consente di vedere esattamente la problematica sul turbinato. A volte dopo gli interventi sui turbinati possono rimanere delle piccole aderenze che sono una complicanza veramente di entità minore, ma che prova a dare una notevole ostruzione a livello nasale. Abbiamo Paolo che ci chiama da Verona. Andiamo a fare un salto anche lì. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Anch'io penso di mettere in fila diverse delle osservazioni che hanno fatto i vostri ospiti. Avrei una preghiera, ma questo in linea di principio, che i dottori smettano di chiedere scusa quando si riferiscono all'uomo come animale. L'uomo è un animale a tutto tondo e quindi tutti i riferimenti che si fanno agli animali per l'uomo devono essere dati per scontati. Lei ha ragione, ma purtroppo lei ben sa che la nostra cultura non ci permette di ragionare in questo modo, e se io oggi avessi detto noi siamo animali da principio avrei ricevuto una sequela infinita di critiche. Riscuso, le chiedo che come uomo di cultura lei riesca a andare oltre a quelli che sono gli stereotipi che ci imponiamo. Ha ragione, lo faremo. Allora, preghiera accettata. Paolo, andiamo avanti. Sì. Paolo? Sono un paziente iperteso con pesanti episodi di apnee notturne a livello da una notte di ospedale in una polisonografia per me ha comportato 238 apnee, che vuol dire qualcosa di una ogni due minuti. Non sono mai riuscito a svegliarmi con la donna a cui volevo bene al mio fianco, perché quale che fosse la condizione in cui ci si addormentava, lei si svegliava sul divano. E sono nella condizione di considerare anche l'ipotesi di farmi mettere le mani addosso da una maxillofacciale. Ha senso? Paolo, Paolo, naturalmente se poi ci manda una mail il professor Trimarchi dettaglierà meglio e può occuparsi del suo caso, ma professor allora, Trimarchi, sì, in pochi in genere, secondi purtroppo. Le problematiche così importanti di russamento non sono correggibili esclusivamente con un intervento chirurgico, ma molto spesso è necessario utilizzare anche l'ausilio di una strumentazione che è la CPAP, che gli consenta di ridurre l'apnea. Perfetto, è stato così rapido. Paolo, se ha bisogno di altro ci scriva, così naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici di visitare la pagina di Salute Uomo per qualsiasi problema, domanda, curiosità, dubbio, mandateci una mail. Sì, io volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva Andrea sull'olfatto, che effettivamente è il senso meno utilizzato. Però se consideriamo i sommelier arrivano ad un utilizzo dell'olfatto che è molto superiore a noi, cioè come tutti gli organi quando viene istruito e educato in maniera particolare arriva ad avere un livello di raffinatezza, quindi risvegliamo il nostro olfatto. Questo weekend andiamo ad annusare. Debora. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori ricordando che da lunedì per tutta la settimana saremo in diretta da Expo 2015, il padiglione Cibus è Italia, stand di Federalimentare. L'ingresso è Roserio, che io non conosco bene, però gli ascoltatori che sono già andati ad Expo sanno dove devono andare per venirci a trovare. Grazie a tutti. Grazie ad Andrea Salonia, il nostro uroandrologo, insomma, è la nostra guida. Grazie a lunedì. A voi.